andati troppo avanti. Dietro noi ci sta il futuro, non ci vedrete mai la faccia. Accontentatevi del culo. Siamo in stabile equilibrio su questa giostra che sbarella, in corsa folle, sempre dritti come razzi su una stella. Paura doppio zero, come zero è quel coin in tasca. Niente ci potrà fermare, siamo come una tempesta. Porto in mano una scintilla da lanciare tra la folla. Vuoi un po' di camomilla? Calma baby, stai tranquilla. Dimmi un po' tu quando, fra poco, fra tanto, potrò fermare il vento, spazza via tutto, potrò bloccare il tempo. Che cazzo hai detto? Ma intanto qui cade il governo. Bastardo, codardo, brutto dentro. Mi stai sentendo? Passati troppo in fretta dalla brace alla padella. Casa mia non è la terra, vaffanculo a questa merda. È così che mi confondo in mezzo a mondi paralleli. Vivo in altre 30 vite sullo schermo della play. Fate la fila per favore per smerdare i nostri riffa. E lecca culo quelli bravi, è riservato un posto VIP. 5 corpi sopra un palco, 0 anime qua giù. Siamo Berioboldo e Frank, Anishme, Tripla Food e Crew. Dimmi un po' tu quando, fra poco, fra tanto, potrò fermare il vento, spazza via tutto, potrò bloccare il tempo. Che cazzo hai detto? Ma intanto qui cade il governo. Bastardo, codardo, brutto dentro. Mi stai sentendo? Che si chiude il cambiamento.